Ti presento due vecchi amici miei, somme a zero sciani, sono i due di denari e insieme a loro tu risparmierai assai. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Deborah, buongiorno. Dimmi. Che paura però, tutte le mattine, che ansia. Cos'è successo adesso? Allora, ieri sera la patrimoniale, la proposta della patrimoniale non era stata ammessa. Quindi... Infatti eravamo tutti contenti. Beh, insomma, diciamo che era cambiato il mare della finanziaria. Nel mare della finanziaria, della legge di bilancio per il 2021, non vedevamo più apparire la patrimoniale. Ma questa mattina... Questa mattina, ecco. Senti, guarda Pietro Lacorte come si sta divertendo con questa crescita di archi. Cosa è successo stamattina? Non ci tenere così in sospeso. Hanno riammesso l'emendamento. Dai, è santo cielo, sì, ma allora come si no. Può stare un attimo tranquilli, entra, esce questa roba qua, come se niente fosse. È un po', giustamente noi abbiamo preso la musica dello squalo, perché è un po' come la pinna che si vedeva nel film, un po' la vedi, la intravedi, poi non sei sicuro di averla vista. Insomma, vedremo. Noi ci scherziamo sopra, in realtà il tema è fortemente divisivo, come hanno testimoniato anche le telefonate degli ascoltatori, i messaggi, ne abbiamo mandato anche non da qualcuno, è fortemente divisivo, dicevo, ed è complesso perché la proposta in realtà... Esatto, perché era stata tolta e perché è stata riammessa, perché c'è tutto un conteggio preciso che viene fatto attorno all'applicazione c'è di un problema presunta... Ma bravissima, vedo che sei molto molto preparata. Allora, c'è un problema di coperture, adesso entriamo un attimo nella serietà del lavoro parlamentare. La questione è questa: questa proposta, che è una proposta firmata da alcuni parlamentari di LeU e del PD, dice sostanzialmente rivediamo un po' le varie patrimoniali, alcune patrimoniali almeno, cioè l'IMU, che è ancora grava sulle seconde case, non sulle prime case. Rivediamo anche la patrimoniale che grava sugli investimenti, lo 0,2%, quindi il 2 per 1000 sostanzialmente. E poi c'è un'imposta di bollo che grava sui conti correnti. Rimettiamo tutto in una cornice diversa e applichiamo una imposta progressiva, cioè più hai, più paghi sostanzialmente. Allora, in realtà la sostituzione di tutti i vari gettiti con una sola imposta è complicata. Per questo motivo la patrimoniale era stata respinta ieri, però sapendo che non è così semplice calcolare quant'è il gettito, anche perché sugli investimenti ad esempio dipende anche dal quanto la gente abbia voglia o meno di investire, sappiamo che in questo momento la voglia non è tantissima, ebbene la commissione bilancio ha detto vabbè, riammettiamo l'emendamento e poi il governo ci dirà che cosa vuole fare e l'aula dirà che cosa vuole fare. Quindi credo che, caro Pietro Lacorte, dovrai tenere da parte la sigla, la musica dello squalo, ancora per qualche tempo. Tra l'altro, Mauro, sarà interessante anche capire che cosa ne pensano di tutto questo fermento politico non propriamente positivo, almeno dal punto di vista del risparmiatore, gli intermediari finanziari. Noi questa mattina ad Investire Informati ne abbiamo uno, parleremo di come investono i risparmiatori che utilizzano delle piattaforme digitali e quindi parleremo magari di un risparmiatore che ha un profilo un pochino più smart, ma credo che anche per loro questa questione fiscale che si sta discutendo in queste ore sia come dire, interessante da commentare, e non credo che sia molto favorevole anche la visione che c'è da quel punto di vista, chiaramente, perché si rischia di modificare anche il rapporto con i risparmiatori, che temono ovviamente un inasprimento fiscale. Allora, senti, quindi ho già preannunciato cosa faremo quest'oggi, visto che è giovedì, cosa c'è ad Investire Informati. Vuoi dare tu tutte le, come al solito, le informazioni per intervenire in diretta? Sì, certamente. Allora, i numeri sono quelli abituali. Abbiamo l'800240024 per intervenire in diretta, il numero verde. Questo numero il giovedì, come sapete bene, è molto importante, perché vi dà la possibilità di rispondere al domandone che vi verrà rivolto appena prima del traffico, e poi in chiusura il primo o la prima che ci daranno la risposta corretta in diretta, quindi chiamando il numero verde, riceveranno in omaggio la nostra ultima fatica letteraria. Investire è facile anche nei momenti difficili, per la penna, le penne di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Poi c'è il numero per gli SMS e WhatsApp. Ti posso dire, Deborah, che già la patrimoniale ha scaldato il WhatsApp. Ma sì, sì. Senti, posso dirti che c'è invece un messaggio carino? Scusami se entro a gamba tesa nelle tue considerazioni. Cristina ci scrive: oggi mi è stato accreditato il bonus bici buona trasmissione, quindi vuole un brindisi, veramente bisogna stappare lo spumante per Cristina. La pazienza è la virtù dei forti, e anche un pochino di chi vuole i bonus e i ristori, verrebbe da dire. Allora, mi mancava di comunicarvi, di ricordarvi in realtà il numero per i vostri SMS o WhatsApp: 349 238 6666. Rinnovo la preghiera anche a messaggi vocali, sigle cantate, considerazioni brillanti, insomma, nei confronti della trasmissione di Due di Denari. Questa mattina ci assiste non solo l'ottimo e onnipresente Marco Lombardo, però da remoto, ma anche Alessandro Marco Tulli, che ha molto insistito per essere proprio presente in regia, infatti lo vedo lì già solerte e pronto. Abbiamo un piccolo giornale radio del risparmio? Ce l'abbiamo. Drin drin, edicola risparmio. And we're down, we go. Allora, viene presentato proprio oggi, Mauro, il terzo report sull'inclusione finanziaria di Banca Etica. È un rapporto molto interessante che misura da un lato la penetrazione dei servizi bancari nel nostro paese, come per esempio la diffusione degli sportelli, ma anche l'utilizzo dell'online banking. Dall'altra parte, un altro elemento misurato sono le condizioni di accesso al mercato del credito da parte di famiglie ed imprese, naturalmente. Mettendo insieme tutti questi dati viene proprio elaborato un indice sintetico di inclusione finanziaria. I risultati sono analizzati nell'arco del periodo, vale la pena precisarlo, naturalmente 2012-2018, quindi sarebbe effettivamente anche interessante capire quest'anno come è cambiato lo spaccato rilevato, ma in ogni caso che cosa emerge dalla rilevazione in questo arco temporale? Ne esce un paese molto polarizzato, dove il rapporto è 1-3. Cosa vuol dire? Che Milano, per esempio, è la città più inclusiva ed è 3 volte sopra Reggio Calabria. C'è una sorprendente caduta per quello che riguarda l'area del nord-est, che, dice Banca Etica, dal 2012 ad oggi è calata di 4 punti, in coincidenza anche con le questioni legate alle crisi bancarie recenti. Ricordiamo su tutte le crisi di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Quello che di più di tutto si delinea, sottolinea appunto questo rapporto, è la progressiva concentrazione delle banche, sempre meno e sempre più grandi. D'altronde ogni giorno raccontiamo di processi di consolidamento bancario che stanno avvenendo anche in Italia, e porta purtroppo ad un minor accesso al credito per individui e piccole e medie imprese. Torna d'attualità la questione dei rimborsi dati o negati per i viaggi aerei, perché il Codici, l'associazione dei consumatori Codici, segnala che Ryanair sta negando i rimborsi a chi non può partire a causa delle restrizioni, insomma le varie zone in cui è stato diviso il paese e le varie indicazioni anche per quanto riguarda le destinazioni fuori dall'Italia. Ci segnala Codici che a poco più di un mese dalla chiusura del procedimento che era stato avviato dal Garante della Concorrenza del Mercato proprio sugli ostacoli che Ryanair ha posto nell'elargire i rimborsi relativi anche alla cancellazione dei voli. E ci sono voluti mesi affinché la società si adeguasse a quanto imposto l'autorità, segnala Codici. Nonostante questo, ci sono passeggeri che ancora stanno attendendo i rimborsi, che sarebbero dovuti essere processati al massimo in una settimana. Adesso ai viaggiatori in partenza dalle zone rosse o arancioni Ryanair non dà la possibilità di ottenere un rimborso, dice Codici, perché la tesi della compagnia è: i voli operano regolarmente, quindi il rimborso non è dovuto alla compagnia. Di fatto, come segnala il segretario regionale di Codici Lombardia Davide Zanon, non interessa, non importa se le motivazioni per spostarsi non sono tra quelle concesse dal governo, e quindi in questo modo però di fatto si impedisce al viaggiatore di richiedere il rimborso. Mauro, sarei contento di apprendere questa notizia, anche se per la verità per te non rappresenterà una novità, visto che tu le norme le leggi, le studi rigo a rigo, per cui io do questa notizia solo a beneficio degli ascoltatori a cui è sfuggita. Con il decreto Ristori Quater, il provvedimento numero 157 dello scorso 30 novembre, arriva una ulteriore indennità a favore di particolari categorie che già avevano beneficiato degli interventi disposti dai precedenti decreti emergenziali. Si tratta dei lavoratori dei settori del turismo, degli stabilimenti termali o dello spettacolo, dei lavoratori atipici che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività a causa degli effetti della pandemia da Covid. L'articolo 9 di questo provvedimento dispone un'ulteriore indennità di 1.000 euro a favore di queste categorie di lavoratori che non possono usufruire degli ammortizzatori sociali previsti per i lavoratori dipendenti. E quindi i lavoratori che hanno già fruito dell'indennità prevista dall'articolo 9 del decreto di agosto riceveranno in automatico il nuovo indennizzo. Viene però disposta anche una nuova indennità di 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori atipici, in particolare saranno considerati i lavoratori dipendenti stagionali di determinati settori, a patto che abbiano cessato involontariamente il proprio rapporto di lavoro fra il 1 gennaio dello scorso anno e il 30 novembre di quest'anno e nello stesso periodo abbiano conseguito almeno 30 giornate di lavoro. Certo che i criteri sono un po' complicati, vanno studiati bene. In ogni caso, questi nuovi beneficiari dovranno, per fare la richiesta di quanto spetta loro, dovranno presentare una istanza all'INPS a breve, entro il 15 dicembre, giorno in cui scadranno anche i termini per richiedere l'indennità prevista dal decreto di agosto. Che sudata, Mauro, mamma mia, poveretti. Non è semplicissimo. Già non lavorano, esatto, e devono pure fare lo slalom per chiedere questa indennità. Vabbè, l'importante è che ci sia e che possa essere magari semplice la domanda da presentare all'INPS. Oggi sulle pagine norme e tributi del Sole, esatto, 24 Ore c'è tutto il dettaglio, a firma di Andrea Dili. Abbiamo un DDDD, un dillo a due denari particolarmente ricco, e poi via verso il nostro investire informati. Prima il DDDD. Dillo a due di denari. Cioè, quindi io ho due ristoranti, devo spendere 600 euro per adeguarmi alla lotteria degli scontrini, quando il cliente già da me può venire a pagare con Bancomat, Satispay, tutti i tipi di pagamenti possibili, e io devo spendere in questo momento, che ho due ristoranti chiusi, 13 dipendenti a casa, 600 euro per adeguarmi? Andiamo a dar la caccia alle grosse società americane che pagano 75.000 euro di tasse. Cioè, i piccoli negozianti non stanno in piedi, la volete capire o no? Poi adesso 300 euro per aggiornare il registratore di cassa. Oh, basta, basta! Spese continue, è la banca che puppa e che ciuccia tutti i soldi per ogni transazione. Basta, magari per un paio di mutande da 2 euro. Oh, ragazzi, basta! E questi qua che ti danno dei ladri, basta! Ladri, chi magari è a stipendio, lo mettono in cassa integrazione e poi va a fare un secondo lavoro. Quelli sono ladri, basta coi commercianti, basta! Io non la vedo tanto semplice la partenza dell'operazione della lotteria degli scontrini, Mauro. Ma non mi sembra, lo so, che così, a naso. Si classifica al secondo posto tra i temi divisivi del momento. Al primo ci mettiamo la patrimoniale, ne abbiamo parlato, e al secondo io metterei questa lotteria degli scontrini. Vedo che gli animi sono sereni, insomma, non ci sono anche così contrapposizioni tra, ad esempio, che so, i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, i ristoratori, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, comunque quello che volevamo dirvi è che vedremo. Abbiamo ospitato ieri anche le richieste appunto della Confesercenti e l'idea era che ci fosse un rinvio, però questo rinvio pare sia improbabile, quindi la lotteria degli scontrini dovrebbe partire dal 1° di gennaio, ma è già possibile, collegandosi al sito lotteriadegliscontrini.gov.it, scaricare il proprio codice lotteria, insomma il codice che poi dovrà essere comunicato all'esercente quando si fa l'acquisto per partecipare a questa lotteria. Ci sono state già 1 milione di richieste, lo ha segnalato l'Agenzia delle Dogane, 1 milione di codici scaricati per corrispondenti a 912.000 utenti, perché come sai Debora, l'abbiamo detto anche ieri, un utente può scaricare più codici lotteria, come un sì, po' se volesse giocare su più tavoli in un certo senso. Vedo Pietro che annuisce, ne hai scaricati molti, esatto. Tu? No, dice di no, va, vedremo. che è andata sicuramente meglio rispetto alla app Immuni. Ecco, diciamo che gli italiani si sono molto più velocizzati nell'operazione di scaricare le proprie credenziali per la lotteria degli scontrini rispetto all'altra applicazione che comunque ha funzionato come ha funzionato. Ma qua la chiudiamo questa parentesi. Ancora un paio di notizie so che hai, sì, su tutto questa rapidissimo. Allora, super operazione. Sì. Attenzione, le app parliamo del cashback, cioè quel sistema per cui ci ridaranno dei soldi se facciamo abbastanza spese, però spese in negozi fisici, non online, e con metodi di pagamento tracciabili. Rientrano tra i metodi di pagamento ammessi anche le app per i pagamenti in mobilità. Hai presente, adesso io non so, faccio un po' di pubblicità, tanto le conosciamo un po' tutti, ma il Satispay, Apple Pay, Samsung Pay, eccetera, eccetera. Insomma, tutte queste app rientreranno nella possibilità. Ricordo che il cashback non è ancora partito, deve partire una fase sperimentale, si pensa entro dall'8 di dicembre, insomma, dovrebbe cominciare questa opportunità per avere poi indietro, questo significa il cashback, una quota di quanto speso in questo modo. Peraltro, per usare il cashback serve la app Io, che è questa app che serve per i vari pagamenti con la pubblica amministrazione, che in questi giorni, segnala il sito del Sole 24 Ore, ha un po' di problemi nel registrare i metodi di pagamento, ad esempio le carte di credito e i bancomat. Speriamo che questo baco venga risolto alla svelta. Ho detto davvero tutto. Noi monitoreremo sicuramente. Riepilogo: il cashback parte l'8 dicembre, la lotteria degli scontrini il 1 gennaio. Noi invece partiamo subito con la rubrica del giovedì. Investire informati. Qua veramente bisogna attrezzarsi sempre di più per avere tutte le informazioni necessarie per investire in maniera adeguata ai nostri bisogni, ma in maniera anche consapevole. Ora, caro Mauro, non c'è bisogno che lo ricordiamo noi che sta terminando un anno veramente, non voglio utilizzare la parola difficile, utilizziamo la parola molto complicato. Se guardiamo anche a quello che è successo sui mercati finanziari, no? Tante volte l'abbiamo raccontato, io e te, mercati che volano, economia in grande difficoltà, noi l'abbiamo chiamato lo strabismo dei mercati, chiamiamola un po' asimmetria. Di sicuro ci sono molte aziende in difficoltà, molte famiglie che sono in difficoltà e ce lo raccontano direttamente ai nostri microfoni. Dall'altra parte però abbiamo anche molti che continuano ad accumulare liquidità sui propri conti correnti. Siamo arrivati a quota, te la ricordi? No, quanto era l'ultimo aggiornamento? 1.700 miliardi di euro fermi appunto sui conti correnti degli italiani, e quindi questo ci genera molti interrogativi, ma con che approccio stanno risparmiando gli italiani in questo momento? Ci sembrava per questo, anche per dare una risposta da un altro punto di vista a questa domanda, avere proprio un punto di osservazione un po' trasversale, quello di un intermediario finanziario evoluto. Oggi ospitiamo Online Sim, che è una delle più importanti piattaforme digitali per investire ed è un osservatorio piuttosto interessante per capire come sta cambiando il modo di pianificare le proprie scelte finanziarie da parte appunto degli italiani. E quindi parliamo di quella quota, Mauro, di italiani che investono, perché in molti risparmiano ma non tutti investono, sono due concetti diversi dei quali parleremo questa mattina con la nostra ospite. Vuoi fare gli onori di casa? Ma certamente, è un piacere accogliere qui a Due di Denari, ancorché solo telefonicamente in virtù delle limitazioni imposte dal contrasto alla pandemia, Francesca Giubergia, presidente di Online Sim. Benvenuta a Due di Denari. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito di oggi, è veramente un piacere parlare con voi.

la tecnologia applicata alla finanza, per cui ad esempio... Benissimo, come... sì. Ci accontentiamo di questa risposta, anche perché non abbiamo più tempo, stiamo in chiusura. Allora lasci poi i suoi dati per ricevere la nostra ultima fatica, che trovate anche in libreria naturalmente se non avete potuto rispondere al domandone. Investire è facile anche nei momenti difficili, per i tipi del Sole 24 Ore. Cara Debora, ci sentiamo domani. Senti Mauro, ma la legge sul divorzio ha compiuto 50 anni, ce ne vogliamo occupare domani a Due di Denaro? Ma come no? Ma sicuramente. Ti piace? Mi è venuta questa idea. Bene, a domani.